Eccoci, eccoci bentornate, qua. Bentornati, bentornati. Fuga noi, gatto. Tra l'altro. Davvero? Un'auto bentornate. Più che altro. Dire, tipo, si dicono le cose da sole, bene. La fuga del gatto, domenica 20, che giorno è? 24 novembre. Vi devo dire, sì, la dai, verità, diciamo la verità, facciamo dai. Subito così, ammenda, outing, siamo assolutamente registrate, ci sentirete in differita, in differita, no, in realtà io la volevo mandare in replica, so. Però sì, probabilmente ce la faremo bastare anche per domenica sì, prossima, sì. Perché ahimè abbiamo problemi con l'internet, abbiamo problemi. Di base e poi anche con l'internet. Disagio su queste frequenze. Però quindi diffuso. Come avrete notato, se ascoltate insomma, da bravi vombati e vombatesse, ascoltate le frequenze non dei mediocri del Wombat, avrete notato che insomma sì, effettivamente c'è la avrete sentito Stiamo lavorando per voi. E quindi che uguale problemi cioè, tecnici. Cioè quindi sfiga e quindi ahimè ci sentite molta registrate, sfiga. Però comunque sia, fatevela bastare, tanto in diretta noi già sapevamo che c'erano degli ascoltatori e delle ascoltatrici lì pronti. Poverini, che ci aspettavano per una volta, c'era qualcuno disposto ad ascoltarci, ma no. Il destino è quel così, che è. È vile ed è quel che è e niente. E non c'è scampo più per me. Non c'è scampo più per me e quindi replica. Replica, però replica su cosa comunque sia? No, più che replica... Post, diciamo. Sì, ecco, differita. Latenza. Mi piace la latenza. Latenza, sì, latenza. Sì. Un po' di... insomma, un po' di delay. Esatto. E, molto bene. Quindi, puntata però, comunque sia, su cosa, direi veramente densissima, perché poi l'abbiamo... Facile, dai. Cioè, questo è facile. Facile. Qui non ci lamentiamo, perché questa è proprio roba... Cioè, facile. Davvero facilona. Dopo che vi ho traumatizzato con tutto sto barocco, perché... Perché mi hanno lasciato voleva, da sola. Ci vuole, è vero. Adesso qualcosa che avreste sempre voluto sapere, ma non avete mai avuto il coraggio di chiedere su Tchaikovsky. Oppure che non ve ne poteva fregare di meno, ma noi ve lo diciamo lo stesso. Anche perché concepire che uno non gli possa fregare di Tchaikovsky a me mi resta un po' difficile. Però ognuno, insomma, i gusti sono gusti. E vi dirò che facile, perché insomma davvero cioè apparentemente in realtà facile, come sempre, come tutti i grandi autori, soprattutto gli autori più usati, abusati. Tchaikovsky è un altro di quelli, poraccio, che la musica abusata davvero Ne ha sofferto. Sì, perché veramente, più meno male che non lo sapeva, insomma, perché più post. Però insomma dai, devo dire, chiunque di voi, di noi, cioè davvero nella vita non può non aver sentito un pezzo di Tchaikovsky. Magari non sapeva che era Tchaikovsky, però non c'è verso, veramente, dalle pubblicità ai film, alle colonne musiche dei film, a tutto. Cioè lui davvero è stato usato e riusato per tutto. Abbiamo già tra l'altro incontrato Tchaikovsky numerose volte nelle nostre avventure. Sì, infatti non è un autore nuovo, neanche La fuga del gatto, come è ovvio, però abbiamo detto, beh sì, ok, ne abbiamo narrato un pochino le sue opere, però non abbiamo mai fatto una puntata integrale dedicata a questo autore. Quindi abbiamo deciso di invece buttarci un po' su una monografica dedicata a Piotr Ilyich Tchaikovsky, e quindi vi faremo sentire in realtà non troppissima musica, abbiamo due ascolti scelti, però vi racconteremo un pochino insomma della sua vita, che già da sola basta a riempire un mese di fuga del gatto, perché veramente insomma ne ha viste nella vita, mamma mia, poi, e insomma, subite abbastanza, cioè in realtà Parello. È buffo che invece il mondo musicale di Tchaikovsky, il gusto è tutto molto fiabesco, molto appunto proprio romantico fino all'estremo, questo immaginario, poi non tutto, ci sono anche delle tracce più cupe, però sono più da individuare, scorrono un po' più sotto, cioè diciamo l'immaginario classico di Tchaikovsky è, a parte che è legato molto al balletto, come vedremo, quindi le cose più note, più famose sono le suite per balletto, e con quelle davvero è entrato poi nella memoria collettiva mondiale, ma di chiunque veramente, anche se uno non lo riconosce, però davvero non c'è verso di non averle sentite. in più, però appunto non solo, appunto non solo le opere più note, non solo così questo immaginario davvero da fiaba, da balletto, da così da avventura romantica, ma anche invece nascondeva appunto nella vita personale un vissuto molto, come vedremo, molto traumatico, molto triste, quindi ecco, tragico. A volte tragico, che invece poi appunto si così si esprimeva in un mondo musicale, in un gusto ovviamente anche motivato dal gusto dell'epoca, però molto invece vivifico, molto, no? Molto bello, molto bello, insomma, è veramente riduttivo bello, però sì, devo dire, noi leggendo nelle biografie varie di, insomma, chi racconta un po' la vita di Čajkovskij, in primis lo vedremo il suo fratello Modest, lui in particolare ha, insomma, molto molto parlato, è stato probabilmente il primo biografo di Čajkovskij, un po' di parte, ecco, occultando certe cose magari, insomma, vabbè, poi lo vedremo, però molti biografi insistono sul particolare, su quanto era sensibile. Un uomo veramente sensibile, un sensibilone che esagerava, che aveva tutto un po' amplificato, un po' ipersensibile, faceva un dramma di qualsiasi cosa. Ora a me, francamente, poi vedremo avanti, questo modo anche di banalizzare un pochino il carattere mi sembra un po' così, cioè, che vuol dire sensibile, dai, poverino. Ma perché ce lo dicono sempre a noi, Mario? Ma che vuol dire? Sensibile. Non mi è piaciuto, non mi è tanto, insomma, l'ho trovato un po' così forzato. Invece vedremo, è una personalità complessa, formata da certi eventi probabilmente che l'hanno sicuramente influenzato e che poi l'hanno portato e probabilmente, insomma, a subire anche un po' di più certi fatti della vita a cui altri avrebbero dato meno peso, ma tant'è, insomma, dagli torto. Quindi entriamo un po' nel vivo, il nostro caro Čajkovskij. Sì, volevo fare solo un appunto, poi lo dirò più avanti, ma tra l'altro è stato anche uno dei pionieri della collaborazione col cinema, perché l'esempio della, ora non me lo ricordavo, me lo sono andata a rivedere, ma per Alessandr Nevsky di Eisenstein, appunto la collaborazione, cioè, in realtà la collaborazione con il regista Eisenstein è rimasta, no, celeberrima, però quindi non solo musica, non solo balletto, non solo è stato uno dei pionieri, dei primi, insomma, che ha lavorato con proprio ci fu tutto un lavoro di giustapposizione tra l'immagine e la musica, tra le immagini filmate da Eisenstein e la musica di Čajkovskij, che è rimasta poi nota, ecco. Così, a chi studia ovviamente l'argomento, per cui ecco un altro aspetto. Eh sì, ha avuto vari aspetti anche pionieristici, vedremo. Nasce nel 1840 in una cittadina industriale di cui veramente ho paura a dire il nome, e muore invece a San Pietroburgo, questo è facile, mi riesce. Sì. Il 1893, quindi insomma una vita purtroppo piuttosto breve, e costellata, vedremo, da vari eventi, molti dei quali spiacevoli, non tutti devo dire, però insomma, e come dicevamo, è russo, quindi comunque, sì, infatti siamo tutto sempre un po' i russi, non è che si scappa troppo dalla tragedia, insomma. Veramente è così, veramente è così. Dicevamo, insomma, che appunto come giustamente sottolineavi all'inizio, un compositore fondamentale che è rimasto, al di là di quello che poi ha lasciato in chi lo ascolta, che poi forse è la cosa più importante, ma insomma è passato un po' alla storia della musica per l'aver unito la musica tradizionale russa con la prassi musicale classica, che invece al tempo, insomma, lo vedremo, era un po' più rigida, più canonica, eccetera. Tra l'altro fu in aperto contrasto con la visione estetica di un altro gruppo di compositori che veniva chiamato fondamentalmente dagli altri, in realtà, il gruppo dei Cinque, che erano dei compositori, erano cinque appunto compositori classici russi, che invece erano più legati a un nazionalismo musicale, mentre invece poi lo vedremo, Tchaikovsky ha unito sì la musica tradizionale alla musica russa, ma ci ha infilato anche molti elementi cosmopoliti, diciamo, molto più che trovava in giro anche grazie ai numerosissimi viaggi che compiva. Questo gruppo dei cinque invece erano questi cinque, che poi dopo in realtà non erano veramente cinque, divennero di più. Il fondatore era Mili Balakirev e poi arrivarono altri, tra cui nomi un po' più famosi, Mussorgsky, Korsakov, insomma, poi vedremo. Poi dopo, nella generazione successiva, Prokofiev, Stravinsky e Shostakovich si rifecero un po' a questa scuola, diciamo, a questo gruppo iniziale. Ecco, Tchaikovsky invece era della fazione dall'altro lato, poi vedremo anche perché, è anche dovuto agli studi di fatto che ci furono. Siamo quindi, come dicevamo, nella seconda metà dell'Ottocento e Tchaikovsky... allora, la Russia dell'epoca era una Russia dove la musica, ecco, diciamo che non è che era scoraggiata, ma non era proprio lo studio della musica in particolare, era qualcosa di assolutamente accessorio e assolutamente non professionistico, non professionale, nel senso che intraprendere la carriera di musicista era qualcosa di inaudito tendenzialmente, o comunque molto scoraggiato. Tant'è che Tchaikovsky inizialmente studiò giurisprudenza e poi lo vedremo, fece una carriera da burocrate, poi fondamentalmente tutt'altro che musicista, almeno all'inizio. E, era proprio difficile all'epoca studiare musica, non c'era un conservatorio, non c'erano delle strutture dove si poteva normalmente e in maniera abbastanza semplice intraprendere un percorso di studio della musica. Quindi quando finalmente poi vedremo dopo a un certo punto queste opportunità di studiare musica un po' più riconosciute formalmente e arrivarono con la costituzione di un conservatorio, a quel punto Tchaikovsky abbandonò tutto della giurisprudenza, che non gli poteva fregare di meno. Ci manca. E disse: ah vabbè, oh, finalmente siamo salvati, mi sguinzaglio e faccio finalmente il musicista come volevo fare. In realtà appunto poi vedremo, al di là delle questioni del suo studio e insomma di cosa l'ha portato poi a diventare musicista, ecco, la sua vita è costellata di avvenimenti piuttosto pesanti e insomma traumatici, tra cui lo vedremo la morte, già da sola basta probabilmente a definire tutta la sua esistenza, e si ipotizza un suicidio, insomma, ora poi vedremo un po' meglio, un suicidio indotto forse, probabilmente, insomma, grandi tinte di giallo e di così, fosche. Come dicevi tu, appunto, leggevo in una cartella che mi ero fatta tempo fa, perché vabbè, ovviamente Tchaikovsky è naturalmente tra i preferiti. Lui fu appunto un po' il diretto antagonista di questo gruppo dei cinque, no? E in realtà subisce molto le influenze di Beethoven e di Liszt, in questo senso, quindi più vicine all'Occidente, no? Rispetto, e soprattutto rispetto a Liszt, proprio per la trasformazione costante dei temi all'interno del movimento, no? Per esempio dallo staccato al legato e viceversa, riproponendoli, appunto, leggevo, con caratteri diversi di tempo nel primo movimento in forma sonata, e poi passando magari, che ne so, il primo tema moderato, spesso insomma fa dei passaggi che poi sono diventati, come dire, tipici suoi, e il suo diciamo il genio fondamentalmente, no? Come si diceva prima, con cui poi si ricorda, è legato appunto ai balletti, ve lo diremo anche dopo, nella produzione Il Lago di Cigni, La Bella Addormentata e Lo Schiaccianoce, abbiamo ampiamente trattato nella nostra fissa. con questi lavori appunto lui riabilitò un po' la musica del balletto ad arte, a forma d'arte, perché come dicevi anche tu, poi proprio per tradizione nella Russia di quell'epoca non era considerato comunque un'alta, insomma, un'alta espressione della musica classica, no? Quella di legarla alle forme dell'arte performativa come il balletto. E in lui invece poi assurge veramente a un piano artistico talmente elevato che poi, cioè quello che noi chiamiamo balletto classico, no? È grazie anche al fatto che alle composizioni di Tchaikovsky. E questo, quindi, anche questa parentesi, diciamo, cioè lui influenza fondamentalmente anche la concezione poi del balletto, quindi riesce a influenzare un'altra forma d'arte oltre la musica classica. Quindi questo è veramente. E in più questa capacità di creare queste sinfonie che sono molto, che parlano un po' al cuore direttamente, no? Sono molto, superficialmente sono state considerate a volte stucche, no? Cioè chi capisce un cavolo di musica fa, ma Tchaikovsky, ma è stucco, è troppo zuccherato, è veramente banale come lettura, non solo è non come è dire vero, che è sensibile. È come dire che è sensibile, non solo non è vero, ma in realtà... A primo, così a forse a primo acchito, a un orecchio così, no? Possono sembrare passaggi anche molto dolci, molto appunto fiabeschi, sognanti. In realtà nascondono una complessità compositiva enorme e una grandissima capacità di esprimere veramente il dramma proprio, che è un po' tipico dei musicisti del suo tempo. In particolare in lui assurge veramente a... Cioè ha un immaginario diretto, grazie anche no, al fatto che scrisse balletti e poemi sinfonici, perché poi in particolare, per esempio, quello su Francesca da Rimini e poi Romeo e Giulietta, quindi insomma, oltre a tutte le... oltre a tutte le altre forme, anche il poema sinfonico fu una in cui si espresse insomma, in maniera veramente... nuova e che poi è rimasta esemplare, ecco. No, ma tra l'altro sì, è proprio, cioè, nel senso, è tipicamente romantico questo fatto di trovarsi a parlare della vita del compositore, dell'artista, per riuscire a capire e insomma a analizzare meglio le opere, perché le due cose sono estremamente legate. Non si può non partire dalla vita, o comunque non tener conto della vita del compositore se si deve parlare della sua musica. Questo potrebbe essere vero sempre, ma in particolare sì, nei romantici, ecco, questa sì, cosa è indissolubile, proprio perché la figura dell'artista in generale, in tutti i tipi d'arte, abbiamo detto tante volte, nel romanticismo acquisisce una valenza fondante, perché non c'è più divisione, cioè no, l'artista è talmente al centro della sua opera, mentre prima poteva essere, no, è chiaro, è sempre vero, però prima non era, cioè, nel romanticismo acquisisce proprio uno status dell'arte, cioè l'artista e la figura dell'artista è centrale, è primeggiata, e quindi la sua vita non può non essere collegata, non può non rispecchiarsi più direttamente che in altri periodi, forse, ecco. E quindi iniziamo un po' con la sua vita, a partire ovviamente dalla nascita. I genitori di Tchaikovsky erano un ingegnere minerario ucraino e la madre invece era la seconda moglie di suo padre, appunto, era Alexandra oddio madonna che nome che c'ha, Alexandra Azrevna. Io non provo, provi lei, guarda. Ma il cognome è facile, Dossier, perché era francese. Meno male. Perché infatti era di una donna di nobili origini francesi, nata però a San Pietroburgo. E oltre a queste ascendenze appunto ucraine e francesi, Tchaikovsky aveva anche mescolamenti polacchi, cosacchi e tedeschi, insomma c'era un po' di tutto, cosa che probabilmente insomma ha influito in un poco, ecco, nella sua visione complessa. Come dicevamo prima, cioè, era un problema in Russia, o perlomeno non era poi così consueto intraprendere una carriera musicale. Ecco, a 5 anni comunque Tchaikovsky inizia a prendere lezioni di pianoforte. Questo era abbastanza in realtà usuale, le famiglie benestanti, nobili, era normale, veniva anche incoraggiato che studiassero musica, ma così come una forma di acculturamento generale, non certo per poi darsi fare alla una musica carriera. Assolutamente. Certo. La prima insegnante di pianoforte di Tchaikovsky, tra l'altro, fu una serva liberata, Maria Markovna, qui è Markovna Palcikova, chissà che ho detto. Avanti. Sì. E vabbè, chiaramente già al tempo venne fuori le inclinazioni musicali, insomma, l'ottima musicalità di Tchaikovsky, vabbè, è lì storia nota di tanti musicisti che iniziano da piccoli e già subito si capisce che avranno successo, come certo. Dire. L'infanzia però di Piotr, il nostro Piotr Tchaikovsky, in realtà fu tutt'altro che ridente e aveva un attaccamento alla madre che fu spesso definito morboso, anche se qua poi, non lo so, è facile giudicare un personaggio con una vita così complessa e andare subito a trovare del morboso, dell'esagerato in delle relazioni familiari che poi, chissà. Che vai a sapere anche, non per... Però cioè, poteva anche essere solo molto affettuoso alla fine, chissà. Però, fatto sta, dalle biografie. Le biografie questo dicono, e dicono anche, appunto, qui ci tengono, soprattutto Wikipedia, devo dire, ci tiene a sottolineare di quanto era sensibilone Tchaikovsky, tant'è che rimaneva molto ferito dai rimproveri dell'istitutrice, appunto era molto attaccato alla madre, e a un certo punto successe un primo evento traumatico, la morte di un compagno di famiglia, di un amico di famiglia, a cui il piccolo Tchaikovsky aveva trasmesso, ovviamente involontariamente, la scarlattina. Quindi questo amico di famiglia viene contagiato per sbaglio dal piccolo Tchaikovsky, maledetti bambini portatori morbi, ecco, viene contagiato dalla scarlattina, muore, e quindi lui si sente drammaticamente colpevole, se ne dispera tantissimo fin da piccolo, quindi già da piccolo, insomma, inizia un po' traumi e drammi. Viene separato già a 10 anni dalla famiglia, perché viene mandato alle cosiddette scuole preparatorie in San Pietroburgo, e ogni tanto, cioè, anche lì si ricorda un particolare di appunto quando la madre lo va a accompagnare a queste scuole, lo lascia, e lui che piange inconsolato, inconsolabile. Vabbè, anch'io però. Però infatti, cioè, non è che adesso io continuo a vederci della normalità in tutto questo, non mi sembra forse niente di strano. Vabbè, però comunque, almeno poi lui è diventato il giorno della musica. Io esattamente, basta, io quindi ve lo devo subito dire, cioè, me la tolgo subito questa cosa. Beh, cioè, siccome Tchaikovsky era omosessuale, allora diciamolo, è sensibilone, andava, allora detto, è emotivo, no, allora c'è una lettura, ma si vedeva, poverino, era proprio, che sensibilità femminile, a me sta cosa mi dà un fastidio. Quindi vabbè. Bene, revisionismo omofobo nelle biografie. No, perché poi le biografie che li scriveva, le scrivevano le stesse persone che poi la sua omosessualità l'hanno condannata, cioè, in maniera ovvia, no? Quindi che dovevano dire? Quindi vabbè. Era sensibile. Era molto sensibile, vabbè, poverino, che strano. Nel però, dato invece molto più interessante e molto più saliente, è che nel 1850, quando era molto piccolo, in realtà, in vero, il piccolo Tchaikovsky assiste con la madre per la prima volta a un'opera lirica, e si tratta di Una vita per lo zar di Glinka. E ne rimane impressionatissimo, e poi un pochino più grande, a 16 anni, ascolta per la prima volta il Don Giovanni di Mozart, e questo fu per lui proprio il, come dire, il colpo di fulmine. E ora non è che voglio sempre, vero, però è andata, cioè sarà un caso, vabbè, dai. E di fatto c'è rimasto sotto. E tant'è che dice, virgolettato, dichiarò al tempo ovviamente molto dopo, a Mozart: sono debitore della mia vita dedicata alla musica. Niente poco di meno che. Insomma, anche comprensibilmente. Un'altra opera che lo influenzò tantissimo e che lo lasciò di stucco fu il Requiem di Mozart, dove disse: uno dei lavori d'arte più divini, al punto che non si può non aver pietà di coloro che non sono in grado di comprenderlo ed apprezzarlo. Questa citazione l'ho messa, poracci, esatto, l'ho messa per te. Sì, perché era un po' cioè, avresti potuto dirla te. Channeling Tchaikovsky. Ce l'ho tatuata oggettivamente io ci aggiungerei anche un poracci. Però è perché obiettivamente, quando io ti dico che, capito, il mio degno aristocratico russo è così, è che uno... Infatti sì. Ora voi non potete apprezzare i lineamenti russi della mia collega qua accanto, magari. Ma sì, che c'ha un colbacco adesso, se ne è messo, certo, da zarina. Sì. Bene. Andiamo un pochino avanti ancora? Io che direi, dici? Dare qualche altra informazione. Allora, quindi siamo arrivati che scopre Mozart, e quindi ciao, cambia tutto. Bene, chiaramente suona il pianoforte, beh, però chiaramente ha un orecchio attento, ovviamente anche le influenze di Mozart si sentono. Io devo dire che non è un caso, cioè non credo sia un caso se chi ama tanto Mozart poi ami anche molto Tchaikovsky, perché in una maniera diversa, chiaramente sono un par di secoli di differenza, uno e mezzo, però sì, cioè si sente molto veramente più che altro sulla cantabilità dei temi, per esempio, no? Cioè questi temi che sono veramente pop. Ma è com'erano quelli mozartiani, cioè ti rimangono veramente in testa. Non è un caso, infatti, che chiunque, davvero, anche se non l'avete mai visto, e il Lago dei Cigni, il pezzettino, oppure lo Schiaccianoci, chi è che non si ricorda il pezzettino della... cioè non c'è verso, un po' perché l'hai risentito mille volte, un po' perché sono veramente cantabili, si dice, cioè rimangono. E questa è una cosa che aveva anche Mozart, ma fa parte un po' di tutti quegli artisti che riescono a asciugare veramente, a lasciare poi, no? L'impressione di questa semplicità che ti rimane in testa, quando in realtà chiaramente dietro c'è un lavoro molto più complesso. E così, diciamo, forse Tchaikovsky eredita, e nel suo gusto si deposita questa caratteristica, che poi è la caratteristica che fondamentalmente contraddistingue il suo lavoro. Ancora che ha una, fortunatamente, una carriera più lunga di quello di Mozart, quindi ecco, in questo è stato più, si è potuto esprimere, certo, più a lungo. Quindi dicevamo che lui appunto aveva avuto questa educazione musicale, così un po' en passant, un po' in infarinatura, e manifestò, come dicevi, una grande disposizione, no? una grande bravura. Quindi, però, in realtà, sì, diciamo che dopo la infarinatura musicale, insomma, studi pianistici, poi però continua comunque lo studio anche della giurisprudenza, che poi rimane, comunque doveva lavorare, doveva un lavoratore, rimane artista, sì, il ramo principale della sua educazione, perché Dio non voglia che ci diventi musicista. Infatti, quindi viene ammesso alla scuola imperiale di giurisprudenza di San Pietroburgo e poi continua a frequentare, rimane per anni comunque. E un destino, appunto, leggevo, di quello di burocrate notevolmente diffuso nel ceto dal quale Tchaikovsky proveniva. Anche i suoi fratelli, infatti, compiono gli stessi studi. E che comunque, insomma, Però Tchaikovsky al college volevo fare così del gossip, però certo che lo dobbiamo fare, insomma, gossip, e si sdà fondamentalmente, esagera, comincia un po' così, viene descritto come accanito fumatore, amante dell'alcol, insomma è un ragazzo che non si faceva mancare niente, si diverte, ma poraccio, anche qui allora vogliamo condannare anche questo, no e infatti da qui le biografie insomma paiono indicare appunto che le sue prime esperienze omosessuali, ecco, no? Ovviamente crescendo sviluppa il suo gusto, e così la questione dell'omosessualità insorge e poi ritorna, poi vedremo costantemente, costella la vita di quest'autore che non riesce mai poi a, ecco, come nessun uomo di quel periodo, a parte rari casi, poteva viversi liberamente questo, senza lo stigma, ovviamente. Questo. E quindi lui appunto addirittura prosegue però gli studi pianistici, no? Sbaglio? Sì, sì. E poi diciamo che vanno in parallelo queste due cose, continua. Lo sempre studi pianistici e la frequenza a questa scuola di giurisprudenza. Poi nel 1859 corona, diciamo, gli studi di giurisprudenza con un impiego al Ministero della Giustizia. Quindi ce lo stavamo per perdere, cioè esatto. Eravamo veramente lì. Perché allora, cioè, ci diventasse un burocrate. Ma te lo immagini? No, cioè, ma infatti, al Ministero della Giustizia. No, al Ministero della Giustizia. A timbrare carte. Come al solito ci ruba i migliori cervelli. E... Oddio, ne sforna anche di bruttissimi. Sì, però sapevi magari quanti, infatti. Potevano darsi all'agricoltura molti, sì, di loro. Sì, sicuramente, anche certo. Se non alla musica. Certo. Però, appunto, quindi siamo nel 1859 e lui effettivamente pare ancora non essere un musicista di carriera, anzi lontano ancora dall'esserlo, ed essere invece un futuro impiegato del Ministero della Giustizia. Però noi qui abbiamo un ascolto. Sì, io qui vi farei ascoltare perché abbiamo... Vi lasciamo con la suspense. Sì, poi abbiamo parlato tantissimo. E abbiamo scelto dalle stagioni, perché non solo Vivaldi ha composto sulle stagioni, anche Tchaikovsky ha fatto un'opera, la 37A, intitolata Le stagioni, dove ci sono 12 brani, uno per mese. Sì, per piano solo. E questa che ci stiamo per ascoltare si chiama Canzone d'autunno, è dedicata all'ottobre, anche se noi siamo a novembre. Vabbè, però direi che oggi è una giornata super autunnale, sì. Quindi la metterei, l'ho scelta proprio solo per questo, onestamente. 5 minuti 19 scarsi, quindi insomma poi torniamo subito con la vita di Tchaikovsky. Thank you. Quindi eravamo nel 59, ma in realtà 5 anni prima succede un evento traumatico, uno dei tanti, però questo probabilmente uno dei più intensi, ovvero muore la sua adorata madre a seguito di un'epidemia di colera. E poi poco dopo anche il padre, in particolare, perché proprio le sfighe non devono venire da sole, il giorno dopo il funerale della madre, appunto ha un malore, no scusate, non muore, no, attenzione, colpo di scena, non è vero, però ha un Vabbè. Malore anche lui, riesce, insomma, non muore, però insomma se la passa male, e quindi c'è questo momento di scoramento totale in cui sembrava che, ah, oh mio Dio, sta per crollare tutto il mondo, in particolare però la madre muore. E attenzione, perché muore di colera, cosa che è piuttosto bizzarra, dato che diciamo ufficialmente anche Tchaikovsky muore di colera. Poi vedremo. Vabbè. Però sì, è vero che era comune, però insomma, sì, c'era un'epidemia, insomma c'erano frequenti epidemie di colera in Russia, ma insomma poi vedremo le condizioni, gli accadimenti intorno alla morte di Tchaikovsky sono molto strani, insomma, quantomeno. E comunque muore la sua madre e Tchaikovsky cade chiaramente in un lutto enorme, disperato, ma comunque la vita va avanti e come dicevamo prima, oltre allo studio della giurisprudenza, comunque lo riusciamo a levare, continua il nostro a studiare musica. E però arriva quell'occasione di cui abbiamo accennato all'inizio, ovvero prima del 59 non esistevano scuole, conservatori, scuole di musica, eccetera, e quindi era ovviamente molto difficile poter studiare musica se non privatamente, ovviamente questo vuol dire anche che solo i più ricchi se lo potevano permettere. Ovvio. Automaticamente. A un certo punto nel 59 proprio, Rubinstein, insieme a fondamentalmente una mecenate come la granduchessa Elena Pavlovna, che era la zia dello zar Alessandro II Romanov. Insomma, grazie a questo sodalizio viene fondata la Società Musicale Russa, poi pochi anni dopo rinominata in conservatorio diretto appunto dallo stesso Rubinstein, con molti docenti, insomma, autorevoli pescati nel parco dei musicisti del momento. E sulla scia di questa apertura poi ne furono aperte però altre scuole. Nel 66 fu aperto un conservatorio anche a Mosca, diretto dal fratello di Rubinstein, e sempre nel 62 a San Pietroburgo aprirono una scuola musicale gratuita, chiamata proprio così, scuola musicale gratuita, che era invece un po' l'altra fazione, il conservatorio di cui abbiamo parlato prima era un po' la scuola classica, diciamo. Questo invece faceva parte, come un po' suggerisce anche il nome, di quella corrente radicale e progressista della musica russa, che si opponeva invece alla musica classica accademica di derivazione un po' tedesca, diciamo, che era quella poi dominante invece, sì, soprattutto nei conservatori dei Rubinstein. Proprio in questa scuola musicale gratuita si forma il famoso gruppo dei cinque di cui abbiamo parlato all'inizio. E invece però Tchaikovsky entra nel conservatorio quello classico, quello di San Pietroburgo, e dove diventa allievo. Sì, diventa allievo di Zaremba, che era un musicista così. E però studia Tchaikovsky, oltre a essere allievo di piano di questo Zaremba, che io non ho mai sentito dire. Però in ogni caso, oltre a questo, studia anche composizione con lo stesso Rubinstein. E insomma, inizia un po' finalmente la... abbandona l'impiego statale, sì, nel 1863, e qui inizia un po' la sua carriera, fondamentalmente. Esatto. Esattamente. Inizia anche un po' a aver fortuna, nel senso che poi inizia a scrivere le prime opere, compone le prime, appunto, le prime musiche più o meno famose e più o meno importanti. Ma diciamo che uno dei momenti, l'hai un po' accennato anche prima te, adesso magari lo approfondiamo un po' meglio, dei momenti più importanti e più significativi dell'arco della vita compositiva di Tchaikovsky è sicuramente quello in cui si inizia un'apertura di Tchaikovsky al balletto. Al genere del balletto, appunto. Sì, lui, appunto, che è poi quello che ha lasciato su cui la sua firma, per cui poi in tutto il secolo successivo fino ad oggi è stato poi la sua eredità più famosa. La collaborazione con il ballerino e coreografo Mario Spetipa per i suoi tre balletti Lago dei Cigni, La Bella Addormentata nel Bosco e Schiaccianoci, rispettivamente Lago dei Cigni del 1877, La Bella Addormentata dell'890 e lo Schiaccianoci dell'892. Con questi lavori Tchaikovsky riabilita di fatto la musica del balletto d'arte, grazie appunto a questo sodalizio, a questa collaborazione con Petipa. Ha detto alla francese, di sicuro in russo forse è Petipa, però va bene, io lo dico alla francese, dove la musica non è più, come era precedentemente, un mero accompagnamento al movimento, perché non è che i balletti non c'erano mai stati, chiaramente c'erano il balletto come forma d'arte esisteva da secoli, addirittura nelle opere di Mozart ci sono dei momenti di balletto, però diciamo che lì la musica, o in generale la musica, accompagna la danza, quindi la danza non è mai più importante della musica. E qui adesso con lui, con questa nuova concezione, la musica è un elemento attivo e integrante, perché viene proprio concepito insieme alla coreografia, no? Non è più appunto un accompagnamento, ma viene proprio generato assieme al coreografo, e quindi il coreografo banalmente proprio spiega qual è la necessità, che cosa vuole, di cosa ha bisogno per sostenere quei determinati passi, quelle determinate figure, e il musicista lo compone. Questa è una delle prime volte che accade, forse la prima nella storia. Il balletto entra quindi così nelle corti, in particolar modo quella degli zar, dei granduchi, e di conseguenza nel secondo Ottocento la capitale del balletto diviene proprio San Pietroburgo. Non è un caso che si parli del balletto russo, grazie anche a Tchaikovsky, grazie a questo passaggio che avviene lì. Poi i balletti venivano portati in tour in tutta Europa, come sappiamo. Schiaccianoci poi addirittura subì dei cambiamenti musicali e coreografici enormi, una volta arrivato in America addirittura assunse significati diversi da quelli che erano, no? E come abbiamo detto nella nostra puntata appunto sullo Schiaccianoci. Però a contribuire appunto a questo successo il grande coreografo Petipa, che muore nei primi del Novecento e che collabora appunto con Tchaikovsky sia per lo Schiaccianoci che per La Bella Addormentata. Quando si pensa alle musiche per questi balletti, si distinguono sempre per il loro lirismo nei temi e per l'eleganza del disegno ritmico. Tchaikovsky fu infatti un orchestratore veramente immaginoso, scrivono, veramente fantasioso, inserendo elementi tra l'altro come strumenti musicali particolari, poco noti, come l'amatissima Celesta, come non dire, ecco, come non citare, eccola, che nella danza della fata confetto rimane poi, no? Quel pezzo che fa tan tan tan tan tan tan tan, quella è la Celesta, che è appunto da noi molto amata, e in nessun altro appunto paese d'Europa come la Russia il nazionalismo musicale assume un livello di maggiore intensità come appunto in Russia. lui ovviamente non compone musica solo per i balletti, lo vedremo poi, ne citeremo altre, compone opere, compone diciamo in maniera minore, ma insomma ci sono veramente una quantità di espressioni, compone opere poemi, sacre, appunto poemi sinfonici, opere sacre, serenate, il famoso Capriccio all'italiana, una quantità di overture ad altri lavori. Tra l'altro tutti un po' pescati qua e là, anche geograficamente, nel senso che ognuno ha una sua ispirazione di varie scuole. Perché di varie... lui appunto famoso, lui viaggiava moltissimo, e non a caso anche qui, anche a Firenze, no? Noi andiamo in pellegrinaggio sempre alla casa che ospitò Tchaikovsky. Alla Targa. Che è sul Viale dei Colli a Firenze. Lui viaggiava molto, passava lunghi periodi all'estero, e questo chiaramente lo influenzava sia musicalmente sia come spunti proprio per le sue opere. Pensate che appunto lui comincia a diventare un musicista professionista a 35 anni, Mozart manco c'era arrivato, pensate a volte quanto cambia da un'esperienza, da una ai tempi all'altra. Quindi questo appunto non si può ignorare, non si può bypassare, non si può non citare la musica per balletto, cioè il Lago dei Cigni su tutti, che è diventato l'emblema stesso del balletto classico, cioè senza nemmeno, quando uno pensa al balletto classico pensa al Lago dei Cigni e i famosi temi del Cigno, veramente di Tchaikovsky riproposti, ritrattati, rimessi in ogni film, pubblicità, stacchetto, penso veramente sentiti e risentiti, ma che veramente rimangono un esempio davvero, è come dire vabbè grazie. È un po', si diceva prima, Tchaikovsky è un po' il Monet della musica classica, no? Mi piace quello molto questo paragone, perché quello che tutti conoscono, che tutti hanno visto, no? Ma che, e che banalmente forse è un po' anche così, si va un po' in over, cioè si è visto, si è sentito così tanto che in realtà non se ne conosce veramente la profondità. Sensibile poi anche lui, ragazzo sensibile anche Monet, si sente, no, come di Monet, no? Uno si ricorda le ninfee, quelle tre cose, va bene, viste e riviste su tutte le cartoline, e così è un po' parallelo con Tchaikovsky, un po' per il periodo che effettivamente nella strada, sì, anche nella strada dell'arte, ma proprio per questa, così, per questa, in bene o in male, questa capacità di rimanere impresso con alcune caratteristiche che poi rimangono nella memoria collettiva, anche se in realtà c'è molto di più sotto, ovviamente. E poi, cosa succede? Ritornando a bomba sulla sua vita, succede questo incontro che determina un cambiamento un po' epocale nella vita di Tchaikovsky, questa volta per fortuna non un trauma, non una tragedia, ma un cambiamento positivo, ecco. In particolare l'incontro con questa Nadza Filaretovna von Meck, che da ora in poi chiameremo von Meck, perché per forza, non cioè, c'è verso. È l'unica, le unici fonemi che si possono pronunciare. Di 9 anni più vecchia di Tchaikovsky, che era un'altra russa, una donna diciamo non un'aristocratica, era di classe media, più della borghesia, come dire, che però aveva ottenuto il titolo nobiliare sposando un ingegnere ferroviario. Che, alla vecchia. Ogni tanto capita, no? ti trovi quello ricco e via. A noi non ci capita mai, ma insomma qualcuno capita. No. Ma che schifo. Le condizioni però economiche di questa famigliola ridente appena formata in realtà non è che furono proprio meravigliose, furono in realtà disagiate per molto tempo, ma a un certo punto le sorti di questo ferroviere, di questo ingegnere ferroviario, cambiarono grazie a una concessione della costruzione, cioè gli venne affidata la costruzione di 3 importanti linee ferroviarie, lavoro che non è che gli è piovuto dal cielo, ma ottenuto grazie a intrighi e corruzioni vari. anche qui tutto è come, insomma, niente, niente di nuovo sotto il sole. Esatto. Grazie a tutte queste mazzette, cose varie che è riuscito, lui intrighi con cui è riuscito a guadagnarsi questa concessione, insomma, gli piomba addosso una bella fortuna economica. Nel pochi anni dopo, qualche anno dopo, il marito muore e questa donna si ritrova vedova con un bel po' di soldi, una immensa fortuna, e però il caso vuole che questa donna, oltre ad avere tra le mani un sacco di soldi, aveva anche una bella intelligenza, un amore per le arti, per la musica in particolare, e insomma decise di fondamentalmente destinare almeno una parte di questa sua fortuna al mecenatismo e a, insomma, a finanziare opere, a commissionare anche opere musicali a dei musicisti che nel suo tempo lei pensava lo meritassero. Cosa che, insomma, poi l'abbiamo visto più volte, insomma, è stata la fortuna della musica per tanti secoli. E il caso vuole che, insomma, lei per varie vicissitudini, che ora non ve la facciamo troppo lunga, però fondamentalmente tramite Rubinstein, tramite il fratello di Rubinstein, insomma, il direttore dell'altro conservatorio, insomma, a un certo punto lei cercava un violinista che potesse accompagnarla nel repertorio per piano, perché lei si dilettava di pianoforte, e Rubinstein gli consiglia questo Josef Josifovich Kotek, che al tempo aveva, sì, che nome, vabbè, va bene, che al tempo aveva 21 anni, era abbastanza un ragazzino, ed era, guarda caso, un allievo di Tchaikovsky, ma anche uno degli amanti di Tchaikovsky. E qui e si inizia, che torbido. Poi tra l'altro non l'abbiamo detto, ma insomma il balletto ha fornito a Tchaikovsky innumerevoli amanti. Ma non qui lo diciamo, perché sennò tutte le volte si scade nel cliché, allora infatti, ballerini, sensibile, vabbè. L'abbiamo lasciata lì, però insomma Kotek effettivamente fu uno degli amanti di Tchaikovsky, e a un certo punto era, come dire, lo descrivono un po' come il tipico, lo stereotipo del ragazzino che fa perdere la testa, così, di cui ci si può innamorare, meraviglioso, genietto, così. E soprattutto, insomma, era proprio il tipo di Tchaikovsky, c'era quello che gli piaceva. Quindi lui un po' così, un po' zerbino, insomma, com'è come non è. Però evidentemente anche sto Kotek tanto stronzo non era, perché a un certo punto fa il nome di di Tchaikovsky a questa vedova facoltosa. Insomma, gli dice: vabbè, dai, Tchaikovsky anche lui è messo un po' male, diamogli la mano pure a Tchaikovsky. E quindi si inizia questo rapporto, perché lei fondamentalmente inizia con una commissione, con il fatto che questa donna gli commissiona un'opera a Tchaikovsky. Inizia questo rapporto con questa von Meck, che è un rapporto che poi insomma va avanti negli anni, è molto molto proficuo e molto complesso, perché tra i due si instaura un rapporto difficile da catalogare, probabilmente sia per i canoni dell'epoca, ma devo dire probabilmente anche per quelli di adesso, dove molti dicono che lei in realtà spingesse per un rapporto invece di tipo più sentimentale, classico, così, e lui non ne volesse sapere. Fatto sta che, insomma, loro si scrivono moltissimo, un rapporto molto intenso, un certo tipo, anche volendo, di dipendenza in qualche modo, almeno così ce la descrivono i biografi. Sicuramente, insomma, un rapporto appunto molto intenso e molto proficuo anche, e poi di cui ci rimane una testimonianza fatta di un numero impressionante di lettere. Pare che, vabbè, Tchaikovsky pare fosse un grafomane esagerato, e si scrivono i due praticamente ogni giorno, più volte al giorno, insomma. E c'è questa cosa buffa, fra l'altro, che mi ha colpito, che i due si accordarono per non vedersi mai, per non incontrarsi mai. Vabbè. Soprattutto per me, ma non voglio fare la battuta facile da parte di lui, facevo questa cosa buffa, ti scrivo le lettere, ma dai, dove sei? Sì, sì. No, è una cosa buffa, dai, uno tanto scherzo. Lui andava in giro il violinista. Eh certo. Si era visto, si era visto. Andò un po' così, fecero questo giochino. E, però fu buffo perché a quanto appunto ci racconta, poi chissà come, se è vero o se non è vero, che appunto si facevano un po' questi abbocchi, tipo beh, in realtà appunto probabilmente appunto in realtà erano molti, cioè, secondo me c'è del vero nelle sue insinuazioni, che lui in realtà cercava di stargli lontano, però fatto sta che facevano delle degli abbocchi tipo io passo davanti alla tua casa e fingo di non vederti ma tu ti affaccia alla finestra, certo, oppure io vengo a casa tua e visito la tua casa quando tu non ci sei e tu fai il contrario con me, sti romantici. Una di queste occasioni tra l'altro venne a Firenze nel 1878, quando Čajkovskij viene invitato a Firenze dalla von Meck, perché in realtà lui ci capitava spesso a Firenze, come abbiamo detto, e fu invitato a Firenze a trovarla, e appunto però anche lì era il giochino, era che io ti invito a Firenze, tu vieni a casa mia, ma io non ci sono. Bellissimo. A me è successo alcune volte, ma non era voluto. Anche a me, con i nostri amici succede spesso. Sì, non era una cosa proprio voluta, però vabbè. È così. E anche lì. Che affascinante questi giochi. Ora, cosa succede? Che tutto questo intrigo, un po' anche affascinante, se vogliamo, bello, tutto quanto, se non che a un certo punto arriva questa ex allieva di Čajkovskij, che pare di cui lui non si ricordasse praticamente niente, cioè che non è che proprio gli aveva lasciato il segno. E vabbè. Anche perché era una donna, quindi infatti alla certa. Questa Antonina Milchukova, cioè che comunque è anche difficile pronunciare il nome, e quindi figurati se ti rimane impresso. E che a un certo punto gli scrive una lettera di dichiarazione d'amore. Così. Ci aveva capito parecchio. Aveva capito, Vispa, la chiamavano Volpe. E lui... Vispona. Lui in maniera così inaspettata, lui dice: ma sai che io gli dico di sì. E quindi spinge tantissimo, nonostante poi in realtà la famiglia, nonostante quello che uno potrebbe immaginare, non spinge per questo matrimonio. Dice: ma che è sta cosa? Vabbè. Ma non vi siete mai visti? Ma vabbè, insomma. E invece alla fine lui spinge per fare un matrimonio fulmineo. Probabilmente gli serviva, magari anche ora voglio fare. No, è proprio così. Un po' paravento serve. Esattamente così. Decise per varie ragioni di ordine, secondo me molto pratico, di sì, si sposarono. Ovviamente l'esito di questo matrimonio fu totalmente disastroso. E le conseguenze sulla psiche di entrambi, direi, furono piuttosto devastanti, perché andò che lui praticamente si dichiarò subito completamente, cioè che provò una fortissima repulsione verso la moglie, ovviamente, direi, e quindi si buttò in una depressione fortissima, tanto che a un certo punto pare scivolò nella Moscova, nel fiume, tentando un suicidio. Non si capì bene, ma insomma pare che scivolato. Era talmente infelice che a un certo punto si buttò nel fiume, non tanto per morire così, ma per lasciarsi andare, ma in realtà non morì, si risolse tutto con un semplice raffreddore. Ma insomma non ne uscì bene psicologicamente, perché comunque rimase un po' sotto a questa cosa di essersi invischiato in una storia ovviamente forzata, in un matrimonio che in realtà era una catena, e quindi insomma ci rimase. Aveva fatto un po' tutto da sé, ma infatti adesso gli aveva detto, e lui lei comunque aveva chiesto, non è che aveva insistito, comunque. Lei, d'altro canto, che non doveva essere un personaggino proprio così, perché insomma, oltre a non essere proprio vispa, ci insisteva parecchio, non se ne faceva una ragione, che lui proprio palesemente non se la sentiva, quindi praticamente a un certo punto loro finalmente si separarono di fatto, anche se non si poteva divorziare per una questione di bon ton, come dire, però decisero comunque di separarsi fisicamente e lui in realtà non lo mollò, pare che gli si stesse proprio attaccata la gamba, chiedendogli denaro, minacciandolo. Insomma, si era messo in una bella situazione, c'aveva visto lungo. E lei nel frattempo si insomma, convive con un altro uomo, danno alla luce tre figli morti, tutti e tre, cioè una tragedia. Pure fortunato. Sì, sì. Insomma, alla fine cosa succede? Succede che questa donna viene rinchiusa, come ovviamente spesso succedeva in quell'epoca, e viene buttata, schiantata in un manicomio. E dove quindi viene mantenuta da Tchaikovsky, però di fatto comunque mi sta mantenendo in un manicomio, quindi non so se gli devo anche di grazie. E poi muore di polmonite, poi in realtà. Ecco, lei alla storia passa come una donna odiosa, petulante, fondamentalmente una specie di ninfomane che lo perseguitava nonostante lui non ne volesse. E c'è invece un film, per esempio, di Ken Russell, la regista a cui noi siamo molto affezionati e che elogiamo spesso, intitolato in italiano L'altra faccia dell'amore, dove invece il regista riabilita un pochino la figura di questa Ken Russell. Aveva appunto Giukova già fatto appunto il film dell'Istomania su Liz, cioè lui è particolarmente amante dei musicisti classici. Sì. E quindi insomma, diciamo anche qua, ovviamente la vicenda è complessa ed è stata banalizzata negli anni, ma insomma sarebbe veramente assurdo trovare dei colpevoli. In tutto questo la Von Meck però era molto gelosa di tutta questa questione e insomma, però diciamo che grazie al rapporto che comunque continuava tra Tchaikovsky e la sua mecenate e anche una vicinanza della famiglia che in realtà tutto sommato gli sta piuttosto vicino, insomma lui si ripiglia da questo sconforto e ricomincia a comporre musica e scrive tra le cose più poi importanti e conosciute. Sono poi le più note. Sì, e a un certo punto però, boom, altro trauma, la Von Meck di punto in bianco gli dice: beh sì, ho avuto dei problemi economici, ciaone, non ti do più soldi perché mi dispiace, fondi tagliati, ciao. E con questo poi non solo dice fondi tagliati, ma gli dice: guarda, io ora vado via, non vado via dalla Russia, ecco, non vediamoci più. Mica male, comunque uscita in tempo, estrazione, esatto. Mica scema là. E lui sprofonda, ovviamente. Bisogna sempre ricordare, dovete sempre ricordare che i musicisti, cioè non era come all'epoca, come oggi, cioè non è che i musicisti venivano ingaggiati dai teatri e avevano carriere, no, stipendiate, cioè bene o male anche i grandi musicisti dipendevano quasi sempre da un mecenate o da, perché gli incassi, cioè quelli che erano poi gli incassi, cioè ovviamente non c'era la distribuzione, non c'erano ancora, sì, i dischi cominciavano ad esserci primi forse alla fine dell'Ottocento, sì, c'erano le prime incisioni, ma insomma non era un mercato come quello di oggi, no, di dischi e di vinili e poi di CD e poi di diffusione. Quindi dovete pensare che tutto quello che avevano era dovuto al buon cuore, fondamentalmente, cioè, ma tutti, cioè tutti i più grandi, Wagner stesso e tutti i più grandi musicisti, a meno che non facessero carriere magari loro come pianisti, per esempio, come era stato per molti virtuosi, no? Durante l'Ottocento, non a caso erano diventati poi esecutori anche delle proprie opere, quindi sì, si esibivano, però se non era appunto, se non facevi quello, fondamentalmente dalle opere che andavano in cartellone non è che poi, capito, ci diventavi ricco, ecco, per persino i più noti, proprio perché non era un sistema concepito così, non era un sistema economico, insomma, sarebbe lungo da spiegare, però soprattutto in certi paesi, quindi comunque dipendevi da un mecenate, appunto Wagner stesso, eccetera eccetera, tanti altri, quindi a meno di non averli di famiglia o comunque di rari casi che riuscivano magari a, ecco, così tramite la propria, no, a esibirsi proprio come, come virtuosi, come musicisti direttamente, ma se no, insomma, certo. Bisogna anche pensare che tutta la, la fama di questi balletti, sì, cioè per noi è sconfinata, però cioè anche il lo Schiaccianoci, che è il più famoso, sì, ebbe un tour in Europa e poi fine, nel senso, poi è una cosa che è rimasta, sì, che è stata poi anche la questione dei diritti d'autore, insomma, era tutta diversa, quindi chiaramente la loro fama magari cioè, monetariamente è più postuma, cioè più dopo, ovviamente, con i diritti e con la diffusione, insomma, è incrementata, ma insomma all'epoca non è che diventavi ricco facendo. Sì, tra l'altro, guardandola dal lato invece del mecenate, probabilmente quello che successe, pare che fu che questa che era una vedova, che si era ritrovata questa immensa fortuna, e chiaramente c'aveva intorno a sua volta dei parenti che vedevano Čajkovskij come una sanguisuga che rubava i soldi a una povera demente, perché poi alla fine questo era probabilmente quello che pensavano, e quindi pare che insomma lei fu un po' costretta a chiudere questa relazione con Čajkovskij, chiuderla anche dal punto di vista proprio appunto sentimentale, e quindi di fatto i due non si videro più, e pare che appunto fu proprio tenuta lontana da lui, e lui ci rimase malissimo, questo silenzio totale da lì in poi della Fonmec, che lui lo fece sprofondare una crisi durissima, che poi andò avanti fino alla sua morte, che avvenne pochi anni dopo, insomma. Altri eventi, diciamo, sempre più traumatici e luttuosi furono la morte della sorella Alexandra di Čajkovskij, la sorella a cui era legatissimo, e che a un certo punto lei aveva un figlio su cui Čajkovskij riversò un po' tutto l'affetto che era stato tolto purtroppo alla sorella, e quindi pare che sì, appunto, in realtà Čajkovskij instaurò un rapporto anche lì un po' al limite del morboso con lui, problematico sicuramente, giovane, che morì suicida nel 1906, ma suicida per i dolori di una grave malattia, quindi ale. E pare che lui fu, questo nipote, fu in realtà l'ultimo serio oggetto di una passione amorosa di Čajkovskij, che però chiaramente, essendo di natura un po' particolare, ecco, questa passione non si espresse, non fu mai portata alla luce, tantomeno, insomma. Ma a lui viene dedicata la sinfonia numero 6 in si minore, quella detta la Pathétique, del 1893, che fu poi considerata anche proprio a suo dire il suo testamento. All'interno, oltretutto, della Pathétique c'è un requiem chiamato il Requiem per me stesso. Che comunque, esatto, si dice, poi un cuor contento. Un cuor contento, cioè, era un ragazzo così. Sì, e che poi insomma fu il suo testamento spirituale ed artistico. Diciamo che ci aveva provato, insomma, schiaccianoci, cioccolatini, sì, caffè, però cose di zucchero, però poi insomma il ragazzo si lasciava andare abbastanza. Sì. Appunto, è buffo questo, no? Questo immaginario che tutti abbiamo no? della sua musica. In realtà, appunto, come vediamo, poi poco corrisponde con le corde, no? Sì, tant'è che poi questo successe nell'ultimo anno di vita di Čajkovskij, dove lui con questa sinfonia Pathétique esegue un ultimo giro di concerti, diciamo, un ultimo ballo, e poi 9 giorni dopo la prima della Pathétique a San Pietroburgo muore. E qui inizia le indagini e le analisi sulla sua morte, raccontata, devo dire, in maniera al limite del freddo dal fratello, che dice sostanzialmente quello che, il racconto del fratello, che è Modest, che è il fratello di Tchaikovsky, nonché suo biografo, come dicevamo all'inizio, il suo racconto della morte di Tchaikovsky è molto preciso, molto lineare, molto freddo, perché pare che appunto, a detta di Modest, Tchaikovsky a un certo punto, per sbaglio, durante un periodo in cui c'era in Russia in generale, diciamo, un'epidemia di colera, Tchaikovsky beve un bicchiere d'acqua non bollita. Da questo si becca il colera e muore. Vabbè. Questa è la versione di, per sbadataggine, così, è andata così, che poi ti fa effetto, dici, quindi praticamente tirando le somme, Tchaikovsky è morto per aver bevuto un bicchiere d'acqua e non bollita. Il famoso di bicchiere d'acqua. Questa era la versione di Modest. Ce ne sono altre, un'altra è una di essersi auto infettato, cioè di essersi voluto suicidare autocontagiandosi, bevendo apposta l'acqua non bollita proprio, cioè, per morire di colera, tra l'altro, appunto, come dicevamo all'inizio, la stessa malattia per cui morì la madre, quindi una morte essenzialmente molto romantica, e c'è chi dice che è andata così. C'è invece un'altra versione, che è quella che sostiene che, siccome l'avvelenamento da arsenico ha una sintomatologia pressoché identica a quella del colera, pare che in realtà ci fu un pare che, guarda caso, in quel periodo venne alla luce una relazione amorosa tra Tchaikovsky e un 17enne nipote di un conte, insomma, per cui questa cosa venne fuori, la famiglia del ragazzo lo voleva denunciare direttamente allo zar, insomma, ne sarebbe uscito derivato fuori, certo, uno scandalo ovviamente, di proporzioni bibliche, perché poi Tchaikovsky al momento era anche famosissimo, insomma, quindi sarebbe stato un casino pazzesco. E quindi, guarda caso, dopo questo episodio avviene la morte così un po' strana, un po' bizzarra, e quindi una delle ipotesi, avvalorata in realtà da alcune lettere, alcuni documenti, quindi non è proprio una ipotesi campata in aria, è che ci fu una concordata una soluzione bella, molto pratica, molto pragmatica, che fu un giurì di onore al quale avrebbero partecipato, ovviamente, il compositore doveva sottoporsi a questo giurì, a questa giuria avrebbero partecipato 7 alti personaggi scelti tra l'aristocrazia dell'epoca, e la sentenza di questa giuria sarebbe stata quella che Tchaikovsky avrebbe dovuto bere del veleno, e quindi una condanna a morte. Di fatto una condanna a morte non esplicita, nel senso che poi questa giuria non si sarebbe dovuto sapere niente, lo zar stesso non avrebbe dovuto sapere niente di tutta questa cosa. Strane. L'avrebbero risolta in maniera così pulita, a loro dire. E insomma, in questa maniera ne sarebbero usciti tutti belli puliti, anche perché poi Tchaikovsky sarebbe stato acclamato con tutti gli onori, la sua morte sarebbe, insomma, non avrebbe il suo onore, non sarebbe stato leso, e quindi, insomma, tutti ne uscivano bene. Ecco, bellissimo lieto fine alla russa, proprio, veramente. Esatto. E questo è quanto, nel senso che poi chiaramente non siamo in grado di sapere quale fu la verità ancora adesso, ci sono varie versioni. In realtà tutte e tre francamente quella che lui beve per sbaglio l'acqua non bollita mi sembra la più fantasiosa. Sì. Le altre due rimanenti, boh, chissà, forse entrambe, ecco, potrebbero essere plausibili. Fatto sta, cioè, non mi sembra che invece il suicidio scagioni, come dire, tutto l'entourage che aveva intorno. No, ecco. Infatti, poi tutta questa storia, appunto, del rapporto con, insomma, ecco, dello scandalo, ecco, dovete pensare sempre, contestualizzare, insomma, il periodo e a cosa significava. Ormai, appunto, come dicevi, era un musicista di fama conclamata, conosciuto sia in Russia che all'estero, Tchaikovsky ha avuto, cioè, ovviamente anche postuma, però ha avuto grande fortuna anche in vita, soprattutto da un certo punto in poi, insomma, quindi non è uno di quelli che non se ne è cagato nessuno e poi è diventato famoso 200 anni dopo, cioè, insomma, era già una figura di spicco, aveva già raggiunto grande successo proprio grazie a questa, come dire, no? Facilità con cui la sua musica parlava al grande pubblico, a quello europeo, delle corti, ma dei teatri, ma di, insomma, ecco, era entrato già, insomma, era un artista che era già noto, e quindi uno scandalo sicuramente insomma, ha innescato, ecco, come dire, questa reazione a catena che poi in un modo o nell'altro ha portato alla sua morte, bene sì. O male, comunque sia andata, diciamo, qualunque sia la versione a cui si sceglie di credere, a prescindere, comunque si torna un po' a questo aspetto tragico con cui lui ha attraversato tutta la sua vita, e purtroppo è comune a molti musicisti della sua epoca. Non è un caso proprio che, insomma, i musicisti, gli artisti romantici abbiano fine piuttosto tragiche e un po' appunto in coerenti anche al modo in cui vivevano le proprie passioni, in maniera abbastanza estrema, in maniera, anche se nel caso di Tchaikovsky poi non potendole nemmeno confessare apertamente, però insomma a maggior ragione, no? Si pensa a Schumann in maniera diversa, no? Addirittura insomma, artisti che sono arrivati proprio alla follia, al delirio, insomma, gli artisti romantici hanno questa, non è un caso, insomma, che abbiano vissuto le loro vite in maniera, Wagner stesso, ne parliamo, insomma, ecco. Quindi questo, a prescindere appunto, come dicevamo, da quello che si decide di credere, così la sua carriera e la sua vita si concludono, però appunto lasciando un'eredità immensa, veramente vasta, e di straordinaria bellezza, di straordinaria profondità, e che nemmeno appunto la sciacquatura, la ripetizione un po' delle solite, no, dei soliti temi, delle solite opere, nel tempo ha saputo sciupare, non so, io è vero. Sono sempre, no, è vero, non lo so, con Tchaikovsky provo sempre, no, sì, a Tchaikovsky, no, vabbè, la solita del Lago dei Cigni, la solita roba, invece non lo so, non mi risultano mai, per quanto conosciuti, per quanto, che è un po' l'effetto Mozart, no, ok, no, il musicista più bello, ok, tutti, però poi quando lo senti riascolteresti, esatto, e quindi alla fine, bene o male, in maniera diversa, no, però evidentemente Tchaikovsky aveva trovato così proprio la sua cifra, la sua chiave per riuscire a inserirsi così nell'Olimpo veramente dei grandi musicisti, con grande grazia, con grande così scambiata spesso un po' per affettazione, per no, per, e invece ha un ascolto attento e soprattutto di certe opere assolutamente. Leggevo che in totale leggevo appunto, avevo trovato questo che in totale la sua opera comprende 7 sinfonie, 11 opere, 3 balletti, 5 suite, 3 concerti per pianoforte, un concerto per violino, 11 ouverture in senso stretto, cioè 3 ouverture e 8 opere orchestrali, 4 cantate, 20 opere corali, 3 quartetti d'archi, un sestetto d'archi, più di 100 canzoni e pezzi per pianoforte, tra cui la famosissima Mignon. Quindi insomma, davvero, oltre le più note, una quantità, un lavoro. La FAMMEC aveva speso, capito? FAMMEC comunque aveva finanziato, okay. E è davvero un personaggio così, appunto, molto complesso, molto, come abbiamo visto, dai lati veramente oscuri e tormentati. E proprio giusto per celebrare questi lati oscuri e tormentati, noi ci ascoltiamo adesso, come ultimo ascolto di stasera, poi con questo vi salutiamo, una delle ouverture, un'ouverture fantastica, Romeo e Giulietta. Sì. Anche qua, chiaramente, già anche soltanto in Shakespeare, insomma, già soltanto l'opera di Shakespeare contiene tutto il dramma, insomma, non ve lo dobbiamo stare a spiegare qui adesso, e quindi immaginatevi poi cosa ne trae Tchaikovsky. Un'ouverture fantastica che non ha un numero d'opera a dispetto delle altre composizioni, e anche se è un'ouverture che insomma farebbe pensare a un'introduzione, come dire, che poi ha altro dopo, in realtà è proprio scritta come un poema sinfonico in forma sonata, c'è un'introduzione e un epilogo, quindi insomma è buffa come composizione. Si basa su tre temi principali, che sono i tre temi principali della storia appunto originale di Shakespeare, Romeo e Giulietta, e insomma si sviluppa in questa maniera strana e finisce con un tema finale che è un omaggio agli amanti, e che è stato scritto in realtà 2 giorni dopo la prima dell'ouverture, quindi insomma c'è avuto una gestazione complessa, perché è stata appunto rivista, riscritta, come poi spesso poi è successo. Io direi a questo punto di ascoltarla, perché mi sembra che già abbiamo parlato tantissimo, un fiume di parole oggi, e andava fatto. E quindi vi lascerei con appunto l'ouverture Romeo e Giulietta di Tchaikovsky, e appuntamento. Ma incontreremo sicuramente Tchaikovsky nelle nostre. Sì, approfondiremo anche altre opere, ci mancherebbe, ce lo facciamo mancare. E poi tra un po' arriva Natale, quindi figurati se vi rivoghiamo lo schiaccianoci in qualche maniera. E magari poi una volta si fa una puntata sui compositori che hanno collaborato appunto anche col primo cinema, i compositori di musica classica, e così magari avremo l'occasione di esplorare anche questo lato dell'autore. Esatto. Interessante. E vi diamo appuntamento alla domenica, a questo punto successiva, perché domenica prossima ricopriremo risarciremo la perdita di questa diretta mancata con appunto la puntata di oggi su Tchaikovsky, e quindi a questo punto ci diamo appuntamento tra 2 domeniche, e sempre intorno alle 18:30, sempre ovviamente su Radio Wombat, di cui vi ricordo i social Wombat perché non l'abbiamo fatto, wombat.noblogs.org il sito, posta wombat@insiberia.net la casella di posta a cui scrivere, e 13:59 le onde mediocri AM, quindi su cui sintonizzarci, sì, per ascoltarci. Sì. Scoprivatele. Esatto, scoprivatele, anche perché ora sono molto meno mediocri e molto più ottime. Esatto. E quindi alla prossima. Un saluto e alla prossima. Ciao ciao. Ciao.